Tra voi saprò di me le più che vi turbò sto meglio ma in conta guisa ucciderete avervi l'uopo cura dell'esser vostro e non potrei fosse mia foste custode veglierei per vostri soavidi ne dite a posti al cielo perché nessuno il mondo ama nessuno tranne sol io ma è vero sì grande amor dimenticato mio vivete per voi va un cor un cor sì forse e a che lo richiedete ma se ciò fosse non potreste allora celiar dite davvero io non vi inganno da molto lì che mi amate ah sì da un anno un dì felice e Misterioso vuol fate? Si folleggiava. Sta ben, restate. Amor, dunque non più vi garba il patto? Io m'obbedisco, parto. Aggiungeste. Prendete questo fiore. Perché? Per riportarlo. Quando? Quando sarà appassito. O ciel, domani. Ebbene, domani. Io son felice. D'amore di mia. Oh, quanto, quanto amo, quanto, quanto. Io son felice. Addio, chi più non brama. Yeah. giorno, ogni giorno muoia, sempre lieta nel ritmo di te. Io vivo quasi in cielo. Chal. Mammina, donde vieni? Da Parigi. Chi te lo commise? Fu la mia signora. Perché? Che mai sento? Lo spendio grande a vivere qui solinghi. E tacevi? Mi fu il silenzio imposto. Imposto? Orba bisogna? Vinta in Parigi. Orbanne andrò a Parigi. Questo colloquio non sappia la signora. Il tutto valgo a riparare ancora. Se Alfredo negar sposo andar dove or si riposa il vincolo e lieti lieti ne rendeva de non mutate in triboli le rose dell'amor o non mutate in triboli le rose dell'amor a prieghi miei resistere no, no, non voglio il vostro cor no, no Non è ciò che chiedo Cielo, che mi uccelcade Offersi assai Pur non basta Volete di me se pieno i renunzi E l'uomo E no, a me angeli tuoi Allora, qual figlia voi dovrete perciò di queste lacrime dal cielo un giorno avrete. Conosco il sacrificio io consumo in amore. Premiato il sacrificio sarà del vostro cuore, d'una patria così nobile sarete fiera allore. Sì, sì, sì. Conosco il sacrificio, fiera. Io consumo il amore. Fiera allore. Il sacrificio sarà del vostro cuore. Oh sì, un'opera così nobile, sarete fiera. Oh, sospiro, sospiro. Thank you. ti scrivevi. A te? Dammi quel foglio. No, per ora. Mi perdona, sono io preoccupato. Io? Giunse mio padre. Lo vedesti? Ah no, se vero scritto mi lasciava. Però l'attendo, t'amerà invaderti. E qui non mi sorprenda, lascia che m'allontani. Tu lo calma, ai miei risuoni mi gemerà, di visi più non ne vorrà. Sarò infelici, perché tu m'ami, Alfredo, tu m'ami, non è vero.